Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. In realtà, un paio di settimane dopo, il giovane Efraim fu accolto al conservatorio. Il giovane venne da Choinitsky per ringraziarlo. Quella volta c'ero anch'io da Choinitsky in albergo. Il giovane Efraim Reisinger aveva un po' l'aria corrucciata e mentre ringraziava dava l'impressione di un giovane che ha una rimostranza da fare. Parlava polacco e io, grazie al mio sloveno, capivo soltanto una parola su tre, ma compresi dalla faccia e dalle occhiate del conte Choinitsky che l'atteggiamento critico, anzi arrogante, del giovane gli piaceva. «Così si fa», disse, dopo che il giovane se ne fu andato. «Da noi la gente non ti dice mai grazie, semmai il contrario. Sono uomini alteri gli ebrei galiziani, i miei ebrei galiziani. Vivono nell'idea che tutte le posizioni di privilegio spettino loro di diritto. Accolgono favori e privilegi con la stessa sublime equanimità con cui reagiscono alle sassate e agli insulti. Tutti gli altri si ribellano se vengono insultati e si umiliano se si fa loro del bene. Solo i miei ebrei polacchi non vengono toccati né da un insulto né da un favore. Nel loro genere sono degli aristocratici, perché la caratteristica dell'aristocratico è innanzitutto l'equanimità. E mai altrove ho visto equanimità più grande che presso i miei ebrei polacchi. Diceva ai miei ebrei polacchi, con lo stesso tono col quale, tante volte, in mia presenza, aveva detto i miei beni, i miei Van Gogh, la mia collezione di strumenti musicali. Avevo la chiara sensazione che, almeno in parte, tenesse in così gran conto gli ebrei perché li considerava una sua proprietà. Pareva quasi che fossero venuti al mondo in Galizia non per volontà di Dio, ma perché egli li aveva personalmente ordinati all'Onnipotente, così come era solito ordinare tappeti persiani al noto commerciante Politzer, pappagalli all'uccellaio italiano Scapini e rari strumenti antichi al liutaio Grossauer. E con la stessa cura, la stessa avveduta noblesse con cui trattava tappeti, uccelli, strumenti, cercava anche di compiacere i suoi ebrei, al punto che ritenne fosse suo semplice dovere scrivere una lettera al padre del giovane un po' troppo arrogante, il bravo Vetturino Manes. Una lettera di congratulazione per la missione di Efraim al conservatorio. Choinitsky aveva infatti paura che il Vetturino Manes potesse precederlo con una lettera di ringraziamento. Ma il Vetturino Manes Reisinger, ben lungi dallo scrivere lettere di ringraziamento e assolutamente incapace di valutare il favore del destino che aveva messo sulla sua strada e su quella di suo figlio, il conte Choinitsky e me, incline semmai a supporre che il talento di suo figlio Efraim fosse così smisurato che un conservatorio viennese doveva considerarsi felice di ospitare un tale figlio, mi fece visita due giorni dopo ed esordì con queste parole. Se un uomo a questo mondo ha delle capacità, arriva a qualcosa. Io gliel'ho sempre detto a mio figlio Efraim, e così è stato. È il mio unico figlio. Suona il violino divinamente. Qualche volta dovrebbe chiedergli di suonarle qualcosa. Ed è superbo. Chissà poi se lo farà. Pareva quasi che dovessi ringraziare il Vetturino Manes perché mi era stato concesso di procurare a suo figlio un posto al conservatorio. «Non mi resta altro da fare qui a Vienna», continuò. «Domani tornerò a casa». «Deve ancora far visita al conte Choinitsky», dissi, «per ringraziarlo». «Un uomo fine, signor conte», riconobbe Manes. «Gli farò un saluto. Ha già sentito suonare il mio Efraim?» «No», dissi. «Dovrebbe pregare di farlo». Thank you. Il treno del vetturino Manes Reisiger partiva alle 11 di sera e verso le 8 egli venne da me e mi chiese, o meglio, quasi mi ordinò di portarlo all'albergo del conte Czojnicki. E così ce lo portai. Czojnicki, molto grato, andò in visibilio. Era perfino commosso. «Che bel gesto!» esclamò. «Venire qui per ringraziarmi!» Io gliel'avevo detto. «I nostri ebrei sono fatti così!» Finì con ringraziare il vetturino Manes per avergli dato l'occasione di conservare al mondo un genio. Si aveva l'impressione che Czojnicki non avesse aspettato altro da 10 o 20 anni a questa parte che il figlio di Manes Reisiger e che ora finalmente si fosse compiuto per lui un desiderio a lungo accarezzato e amorosamente coltivato. Per pura e semplice gratitudine offrì perfino a Manes Reisiger il denaro per il viaggio di ritorno. Il vetturino rifiutò. Ci invitò invece tutti e due ad andare a trovarlo. Aveva una casa, disse, 3 stanze, una cucina, una stalla per il cavallo e un giardino dove teneva la sua carrozza e la sua slitta. Oh, era tutt'altro che un vetturino povero. Guadagnava anche 50 corone al mese. E se fossimo andati da lui, ce la saremmo passata magnificamente. Ci avrebbe pensato lui a che non avessimo a mancare di nulla. Non trascurò nemmeno di ricordarci, a Czojnicki e a me, che era nostro preciso dovere occuparci di suo figlio Efraim. «Di un simile genio bisogna aver cura», disse accomiatandosi. Czojnicki promise, e promise anche che l'estate seguente saremmo andati di sicuro a Zlotogrod. Arrivato a questo punto, devo parlare di una questione importante che quando cominciai a scrivere questo libro avevo sperato di poter evitare. Si tratta niente meno che della religione. Io ero miscredente, come i miei amici, come tutti i miei amici. Non andavo mai alla messa. Ero solito però accompagnare mia madre, fin davanti all'ingresso della chiesa. Mia madre, che forse è vero, non era credente, ma sicuramente praticante, come si diceva. A quell'epoca odiavo addirittura la chiesa. Per la verità, oggi che sono credente, non so più perché l'odiassi. Era di moda, per così dire. Mi sarei vergognato se avessi dovuto dire ai miei amici che ero andato in chiesa. Non c'era in loro una vera ostilità verso la religione, bensì una specie di orgoglio nel non riconoscere la tradizione nella quale erano cresciuti. Non è che volessero rinunziare alla sostanza della loro tradizione, ma essi, anzi noi, io ero dei loro, ci ribellavamo alle forme della tradizione, perché non sapevamo che la vera forma è identica alla sostanza e che era puerile scindere l'una dall'altra. Era puerile, come ho detto. E infatti, noi allora eravamo puerili. La morte incrociava già le sue mani ossute sopra i calici dei quali noi bevavamo, lieti e puerili. Noi non la sentivamo, la morte. Non la sentivamo perché non sentivamo Dio. Thank you. Fra di noi, il conte Czojnicki era l'unico che si attenesse ancora alle formalità religiose. Ma anche lui, non già per fede, bensì per il sentimento che la nobiltà lo obbligasse a seguire i precetti della religione. Noi altri che li trascuravamo ci considerava semianarchici. La Chiesa romana, usava dire, in questo marcio mondo è l'unica ormai in grado di dare, di conservare una forma, anzi, si può dire di dispensare forma, in quanto racchiude nella dogmatica, come in un palazzo di ghiaccio, l'elemento tradizionale delle cosiddette antiche usanze, procura e concede ai suoi figli tutti intorno, fuori di questo palazzo di ghiaccio che ha un ampio e spazioso vestibolo, la libertà di coltivare l'indolenza, di perdonare l'illecito e anzi di commetterlo. Mentre statuisce dei peccati, già li perdona. Non ammette assolutamente uomini perfetti. Questo è il suo contenuto eminentemente umano. I suoi figli perfetti, essa li santifica. Con questo ammette implicitamente l'imperfezione degli uomini. Anzi, ammette l'inclinazione al peccato nella misura in cui non considera più come umani quegli esseri che al peccato non sono soggetti. Questi diventano beati o santi. Con ciò la Chiesa romana dà testimonianza della sua fondamentale propensione al perdono, alla remissione. Non esiste più nobile propensione del perdono. Considerate che non esiste di più volgare della vendetta. Non c'è nobiltà senza generosità, come non c'è brama di vendetta senza volgarità. Era il più vecchio e il più saggio fra noi, il conte Czojnicki, ma noi eravamo troppo giovani e troppo sciocchi per tributare alla sua superiorità quell'omaggio che essa certamente meritava. Lo ascoltavamo più per compiacenza che per convinzione, e per giunta ci immaginavamo anche di fargli una gentilezza a starla ad ascoltare. Per noi, cosiddetti giovani, era un uomo maturo. Solo più tardi, in guerra, ci fu dato di vedere quanto fosse veramente più giovane di noi. Ma solo tardi, troppo tardi, ci accorgemmo che in realtà noi non eravamo più giovani di lui, bensì semplicemente senza età. Per così dire, innaturalmente senza età, mentre lui era naturale, degno dei suoi anni, autentico e benedetto da Dio. paio di mesi dopo ricevetti dal vetturino Manes Reisiger la lettera che segue. «Pregiatissimo signore, dopo il grande onore che lei mi ha fatto e il grosso servizio resomi, mi permetto devotamente comunicarle che le sono molto, molto riconoscente. Mio figlio mi scrive che fa progressi al conservatorio e a lei vado debitore di tutto il suo genio. La ringrazio di cuore. In pari tempo mi permetto chiederle se volesse essere così gentile da venire qui da noi. Suo cugino, il caldarostaio Trotta, alloggia sempre, vale a dire da 10 anni a questa parte, da me ogni autunno. Ho pensato che anche a lei sarebbe forse gradito alloggiare da me. La mia casetta è povera, ma spaziosa. Pregiatissimo signore, la prego di non volermene per questo invito. Io sono così piccolo e lei così grande. Pregiato signore, chiedo anche scusa se faccio scrivere questa lettera. Io non so scrivere, salvo il mio nome. Questa lettera è scritta per mia volontà dallo scrivano pubblico del nostro paese, Hils Kinhover, cioè da un uomo fidato, da bene e legalmente autorizzato. Servo devoto del pregiatissimo signore, suo Manes Reisiger, vetturino a Zlotogrod. La lettera intera era vergata con molta cura, in bella calligrafia, come stampata, si diceva allora di questa specie di scrittura. Soltanto la firma, il nome appunto, tradiva la commovente goffaggine della mano del vetturino. La sola vista di questa firma sarebbe bastata a farmi prendere la decisione e a fissare per l'inizio dell'autunno prossimo il mio viaggio a Zlotogrod. Spensierati, a quell'epoca eravamo tutti. E io ero spensierato come tutti gli altri. La nostra vita prima della Grande Guerra era idilliaca e già un viaggio nella lontana Zlotogrod sembrava a noi tutti un'avventura. E il fatto che io dovessi essere l'eroe di questa avventura era per me una splendida occasione per farmi bello agli occhi dei miei amici. Così, benché questo viaggio avventuroso fosse ancora tanto lontano nel tempo, e benché io solo dovessi farlo, pure ne parlavamo ogni sera, come se soltanto una settimana mi separasse da Zlotogrod. E non fossi io solo a doverlo intraprendere, ma noi tutti insieme. A poco, questo viaggio diventò per noi tutti una frenesia, addirittura una ossessione. E cominciamo a raffigurarci molto arbitrariamente la piccola lontana Zlotogrod, al punto che perfino noi, nell'atto stesso di descriverla, eravamo convinti di abbozzarne una immagine completamente falsa. Eppure non potevamo smettere di falsare questo luogo che nessuno di noi conosceva, ossia di dotarlo di attributi di ogni specie che fin da principio sapevamo essere arbitrario frutto della nostra fantasia e niente affatto le qualità reali della cittadina. Tale era la serenità di quei tempi. La morte incrociava già le sue mani ossute sopra i calici dai quali bevavamo. Noi non la vedevamo, non vedevamo le sue mani. Ci dilungavamo a parlare di Zlotogrod con tanta foga e tanta insistenza che fui preso dalla paura che un giorno potesse sparire all'improvviso o che i miei amici cominciassero a credere che quella Zlotogrod fosse diventata irreale e non esistesse affatto se non nei miei racconti. All'improvviso fui preso dall'impazienza e perfino dalla bramosia di vedere questa città e il vetturino di nome Reisiger. Partì nel colmo dell'estate del 1914, dopo aver scritto al cugino Trotta a Sipoglie che lo aspettavo là. Thank you.